molte nelle città italiane gli spunti che appunto possono permettere di godersi una giornata di vacanza reale nelle città che aprono i musei. Oggi solo a Milano, appunto, solo a Milano sono veramente molti i musei aperti, anche gratuiti. Poi ci sono manifestazioni, ci sono occasioni di approfondimenti tecnologici. Mi segnalano, tra l'altro, dal Museo della Scienza e della Tecnica, proprio storica istituzione di Milano, una giornata da trascorrere in un percorso tra robotica, nuove tecnologie, insomma. Un modo per trascorrere giornata al fresco, i musei spesso hanno questa caratteristica, ma anche in compagnia, anche magari portando i più piccoli e perché no con un modo per divertirsi imparando qualche cosa. Naturalmente per essere più, diciamo, canonici, il Ferragosto ci porta al mare. Noi tra qualche minuto riprenderemo il collegamento, abbiamo anticipato un collegamento con Stefano Ciafani, che è il vicepresidente nazionale di Lega Ambiente. Come avete sentito nella rassegna stampa, insomma, questa vicenda quest'anno Goletta Verde si sta facendo davvero, ha fatto arrabbiare parecchio, in particolare la Liguria. Questa mattina al Secolo XIX, dunque, quotidiano di Genova apre a tutta pagina la bufera su Goletta Verde, racconta di un Mar Ligure bocciato e di una regione che insorge, dice: i prelievi sono stati fatti dove ci sono dei divieti. Tra qualche momento dovremmo avere con noi appunto il vicepresidente dell'organizzazione che ogni anno ormai è diventata un'abitudine anche della nostra estate, un punto così di riflessione sullo stato delle coste italiane, compie a bordo appunto della goletta di Legambiente un lungo viaggio tra Imperia e Trieste, un viaggio di circunnavigazione che dura 2 mesi. Pensate, è stato lanciato nel 1986, un progetto in difesa del patrimonio marino e costiero. Così l'imbarcazione percorre i litorali della penisola, dunque da Imperia, proprio la Liguria è la prima tappa di questo viaggio, scende giù fino alla fine appunto dello stivale, circunnaviga la penisola per poi risalire e fare un lungo percorso nell'Adriatico fino al capolinea di Trieste. Eccoci qua dunque, aspettando un collegamento che comincia a farsi difficile, speriamo di poterlo realizzare nei prossimi minuti. Allora approfitto per dare spazio subito alla replica. L'avrei fatto insieme appunto a Stefano Ciafani, ma credo che non abbia nessun problema e conosca la replica e il punto di Renata Briano, titolare dell'ambiente della regione Liguria. L'articolo da questo punto di vista è molto chiaro, dice: l'assessore furiosa, fanno i prelievi alle foci dei fiumi. Se la ride, anche se è un po' in contraddizione con il titolo. Goletta Verde la conoscono tutti, indubbiamente rappresenta un grande stimolo, ma il suo modo di giudicare e di divulgare certe notizie non tiene conto dei dati che noi raccogliamo tutti i giorni. Noi sappiamo come sta il nostro mare e sta bene il nostro mare, così Renata Briano. Insomma, la bocciatura di Legambiente non scuote l'assessore regionale, che si sente la coscienza più che a posto, più che a posto. Facciamo più controlli del dovuto, più che alle classifiche rispettabili, ma che non sono sempre il modo migliore per rappresentare la realtà, la regione Liguria dà il giusto peso ai costanti monitoraggi delle acque. Dalla regia Carmelo Lauricella mi segnala che dovremmo essere riusciti a raggiungere. Allora, Stefano Ciafani, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccolo a voi. Qua, buongiorno. Dunque, stavo leggendo la replica, oggi addirittura la vostra Il vostro rapporto annuale si merita l'apertura del secolo XIX, come evidentemente voi sapete bene. Dunque, bufera su Goletta Verde. Allora, io direi che prima affrontiamo subito la questione Liguria, poi però ci racconta un viaggio, perché come dicevo, quello di Goletta Verde è davvero un viaggio anche che molti vi invidiano, attraverso un territorio tra mare e terra straordinario. Allora, replica della Liguria, fanno i prelievi alle foci dei fiumi. Ma l'assessore Briano probabilmente non è molto informato. Ieri, diciamo, tra l'altro, insomma, ci conosce bene l'assessore. Ieri ha mandato alla stampa questa nota molto stizzita, in cui, diciamo, ovviamente ribadiva i dati dell'ARPAL, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Liguria, che noi ovviamente non contestiamo assolutamente. Quelli sono i dati ufficiali per certificare la balneabilità del mare della Liguria. Noi facciamo un lavoro diverso, sarebbe anche sciocco replicare un lavoro che l'agenzia regionale fa, previsto per legge, con, come dire, i giusti fondi che ovviamente noi da associazione di cittadini non abbiamo. Ecco, ma allora ci chiarisca subito una cosa, perché sennò la nostra confusione aumenta. Allora, se l'ARPAL dice che è balneabile e voi dite invece che è fortemente inquinato, come queste due comunicazioni possono essere correttamente gestite da noi utenti? Le spiego. Allora, diciamo, l'ARPAL fa i controlli sulla balneabilità e quindi lo fa sulle spiagge e prende i prelievi delle acque di mare ogni tot chilometri di costa. Noi facciamo un lavoro diverso, noi selezioniamo i punti che campioniamo con il nostro laboratorio mobile sulla base delle segnalazioni di punti critici che ci vengono date o dai circoli e dai regionali di Legambiente o dai cittadini direttamente con il servizio SOS Goletta. Ci vengono inviate delle segnalazioni su tratti di mare che sono, diciamo, a occhio nudo sembrano inquinati, su cui poi noi facciamo le analisi microbiologiche. Queste situazioni spesso si trovano nei pressi o di scarichi di tubi che arrivano sulle spiagge o purtroppo nei pressi dei luoghi che sono il nemico numero uno del mare italiano, che sono le foci di torrenti, canali piuttosto che di fiumi, che sono i luoghi dove arriva a mare l'inquinamento da scarichi fognari non depurati dei comuni dell'entroterra. Quindi noi non preleviamo, come dice l'assessore Briano, i campioni solo alle foci, noi andiamo nei luoghi che sono potenzialmente punti critici e facciamo rilevare che in quei tratti di mare arriva un inquinamento da scarico fognario non depurato, e quindi c'è un inquinamento di origine microbiologica, ci sono batteri di origine fecale, per intenderci, che sono, diciamo, evidenziano un'assenza o un'inadeguata depurazione. Il Mar della Liguria ha rilevato 15 di questi punti critici. Va benissimo che il 97% delle spiagge della Liguria siano balneabili, ma questo, ripeto, non lo mettiamo in discussione, ma nessuno può mettere in discussione che abbiamo rilevato 15 tratti di costa in Liguria dove abbiamo trovato batteri di origine fecale. Del resto, questi dati, i dati di Goletta Verde sono confermati non solo dall'Istat, che ricorda come il 39% degli abitanti equivalenti della Liguria non sono adeguatamente depurati, ma noi siamo stati condannati il 18 di luglio dalla Corte di Giustizia Europea per non aver rispettato la direttiva sul trattamento delle acque reflue del 91, di 109 comuni o agglomerati urbani al di sopra dei 15.000 abitanti che sono citati nella sentenza di condanna, 9 sono in Liguria. Quindi, insomma, c'è un problema oggettivo. Insomma, ci sia un problema oggettivo sulla Liguria. Grazie per il chiarimento. Naturalmente questo è un elemento di preoccupazione che si aggiunge in un'estate di complessità. D'altra parte, il compito, appunto, vostro, delle organizzazioni, è di fare denunce e sensibilizzazione. Io le chiedo di rimanere con noi, Ciafani. Adesso sentiamo un momento insieme il nostro punto delle 8:30 sul meteo, poi vorrei parlare anche del resto d'Italia. Tra un momento. 24 mattino, estate. qui al lago di Como i turisti sono tutti stranieri. Buon Ferragosto. Questo scrive Corrado stamattina, mentre dice consegno pane freschi nei negozi del lago. Allora, buon lavoro a Corrado, grazie degli auguri che ovviamente ricambiamo qui io e tutta la redazione di Radio 24, tutti i nostri ascoltatori, a chi lavora, a chi non lavora, a chi si sta godendo legittimamente e spero con piena soddisfazione questa giornata di Ferragosto e magari qualcosa di più. Noi torniamo allora con Stefano Ceffani, lo ricordo, è vicepresidente nazionale di Legambiente, e certo per godersi appieno e magari anche in modalità low cost il proprio territorio deve avere una qualità appunto elevata. Questo riguarda il mare, riguarda i fiumi, i laghi, non dimentichiamo, insomma, non esiste solo la costa in questo paese. I fiumi per anni sono stati totalmente abbandonati dalle attività turistiche, ora per fortuna in alcune zone vengono riscoperti, anche se questa estate così secca, insomma, rende difficile proprio apprezzarli. Ma allora, Ceffani, lasciamo da parte la Liguria, credo che un tema su cui ritorneremo. Ci racconti il viaggio, la partenza a Imperia, 2 mesi lungo le coste, per osservare che cosa? Ma insomma, siamo partiti da Imperia, che è un luogo abbastanza simbolo, a proposito delle cose che ci dicevamo, perché infatti, insomma, tra, diciamo, Imperia è l'unico capoluogo di provincia d'Italia che depura lo 0% dei suoi reflui fognari, a proposito di comuni che in Liguria. Cioè mi sta dicendo che passa tutto in mare? Imperia scarica tutto in mare, lo 0% dei suoi reflui fognari non vengono depurati, quindi insomma da lì siamo partiti. Però, per la vicenda relativa appunto all'inquinamento delle acque, c'è stato anche, diciamo, insomma un problema molto rilevante relativo al porto d'Impera, su cui c'è stata un'indagine importante, perché insomma in questo viaggio abbiamo parlato anche, insomma, di cementificazione delle coste, abbiamo parlato di portualità a volte inutile. Insomma, abbiamo fatto un viaggio di 55 giorni che ci ha portati a, da una parte, raccontare il negativo e a in qualche modo mettere alla gogna, per così dire, certo, quelli che noi definiamo i nuovi pirati del mare, quelli che non stanno solo, diciamo, nei libri di Salgari o nei film di Johnny Depp, dei film hollywoodiani. Insomma, ci sono tante situazioni di minaccia sui mari italiani che abbiamo raccontato, ma abbiamo anche raccontato le cose positive, ce ne sono tante. Ecco, a proposito di cose positive, ci dica, visto che appunto è un viaggio che si rinnova da più di 20 anni, quali posti hanno fatto dei grossi passi avanti? Perché è ovvio che c'è sempre un cocktail, no, che ha a che fare con l'impatto demografico, con la posizione, con i fiumi stessi. Qualcuno oggi dice sì, grazie, l'Adriatico va meglio perché non hanno praticamente scarichi d'acqua, nel senso che c'è la siccità. Ma insomma, chiaramente tutte queste indagini vanno lette con molta attenzione. Però voi avrete visto dei luoghi che nel corso degli ultimi anni hanno detto bene, abbiamo un problema e lo affrontiamo. Guardi, gliene posso citare uno che purtroppo 2 anni fa è salito agli onori delle cronache nazionali per un omicidio importante, e mi riferisco a Pollica, al comune della provincia di Salerno, dove 2 anni fa purtroppo il sindaco è stato, certo, barbaramente ucciso. Allora, Angelo Vassallo, diciamo, che era appunto il sindaco fino a 2 anni fa, ha trasformato Pollica in una località sconosciuta fino a 15 anni fa, e l'ha fatta diventare, con una serie di interventi, a volte anche interventi, diciamo, ovviamente, che hanno trasformato il territorio, in una località che era diventata, ad esempio, tra le prime località che noi, diciamo, ogni anno segnaliamo con la guida blu che facciamo annualmente con il Touring Club Italia, e la portò a diventare un comune con le 5 vele. Ecco, Pollica è stato un luogo che noi, tra virgolette, abbiamo osservato, tra virgolette adottato, e anche con una serie di interventi, ripeto, infrastrutturali, perché diciamo, l'ambiente non deve essere considerato un museo, si può anche trasformare, ma si deve trasformare ovviamente in maniera positiva. Ecco, insomma, quella località oggi è una località rinomata in tutta Italia, non solo per la morte e l'assassinio dell'ex sindaco Angelo Vassallo, ma anche perché è un luogo veramente dove vale la pena andare. E tra l'altro noi quest'anno abbiamo fatto la prima edizione di Festa Ambiente e Legalità, insomma un luogo, ecco, il tema della legalità ovviamente è così strettamente connesso a quello ambientale, dunque bene la segnalazione di Pollica. Nel sud complessivamente la situazione però che avete indicato resta grave. Guardi, insomma, purtroppo diciamo, rispetto al monitoraggio ci sono ancora gravissime carenze di depurazione. Insomma, la Calabria, che è quel mare fantastico, continua a sversare nel Mar Tirreno il 50% delle fiumi. Calabria dunque che resta maglia nera. Purtroppo sì, insomma, tra le regioni che insomma, abbiamo fatto elaborati i dati dell'Istat sul trattamento delle acque reflue in occasione della conferenza stampa di ieri, in Sicilia risultano 4,5 milioni di abitanti equivalenti non depurati, cioè più della metà. E sul podio ci sono anche altre due regioni che non sono il sud Italia, perché c'è il Lazio con 3 milioni di abitanti e la Lombardia, la ricca Lombardia, che ha 3 milioni di abitanti equivalenti che scaricano direttamente nei fiumi o nei laghi. Questo proprio a testimoniare che la carenza di depurazione non è un problema che riguarda solo il sud, diciamo più depresso sotto il punto di vista economico, ma anche le regioni ricche ed importanti. E magari anche non quelle che appunto hanno sbocchi diretti sul mare, perché ovviamente il sistema è unico, insomma i fiumi, oggi è vero che il Po, poverino, è in una fase appunto critica, ma insomma su un percorso annuale i grandi fiumi che attraversano e toccano e bagnano Emilia piuttosto che Lombardia svolgono un ruolo importante. Concludiamo il viaggio, voi avete risalito l'Adriatico per molte estati è stato diciamo anche una sorta di carta tornasole di tutte le complessità. La situazione che avete riscontrato quest'anno? Beh, insomma, 20 anni fa c'era il dramma della mucillagine che in parte è stato risolto, insomma negli anni poi si sono trovate altre forme di alghe, a volte anche tossiche, come la Ostreopsis ovata, questa alga che non era proprio autoctona del Mediterraneo, ma che ogni tanto, soprattutto quando la temperatura aumenta dell'acqua, insomma le ritroviamo un po' in giro per l'Italia. L'Alto Adriatico quest'anno è risultato, diciamo, tra virgolette più pulito, perché diciamo ha utilizzato, usufruito, diciamo, come effetto indiretto positivo della siccità. Ad esempio l'Emilia Romagna quest'anno è risultata la terza regione in Italia secondo Coletta Verde col mare più pulito, ma perché? Perché i fiumi o i canali o i torrenti non riuscivano ad arrivare nel mare Adriatico perché avevano le foci completamente secche. Insomma quindi, non diciamo, è certo una problema, promozione, diciamo no, che no, al massimo il problema è... della depurazione resta, è stata solo una cosa temporanea. Voglio dire solo una cosa velocemente. Prego. Questa segnalazione sulla depurazione, sulla mancata depurazione, la facciamo perché, visto che siamo stati condannati dall'Europa, noi rischiamo di pagare multe salatissime. Ecco, noi vorremmo che i soldi dei cittadini italiani venissero spesi utilmente per aprire nuovi cantieri, per realizzare nuove fognature, nuovi depuratori, piuttosto che spendere inutilmente, in maniera davvero sciocca, i soldi degli italiani per pagare delle inutili multe. Mi sembra che chiarissimo, è difficilmente è difficile non essere d'accordo. Ricordo con Stefano Ciafani, vicepresidente nazionale Lega Ambiente, insomma se dobbiamo pagare delle multe magari tanto vale accantonare immediatamente questi soldi per completare un percorso. Avete sentito, la mancanza di depurazione è davvero ancora impressionante, ci sono dei dati che colpiscono. Grazie a Stefano Ciafani che ci ha portato praticamente intorno allo stivale e così siamo arrivati abbiamo di fatto portato la goletta verde verso la sua destinazione, quindi nell'Adriatico e in Romagna, dove adesso facciamo tappa. L'avevamo detto, volevamo ritornare in questo Ferragosto per raccontare anche il Ferragosto particolare che sta vivendo la provincia di Modena, l'Emilia, in queste estate, appunto sull'effetto del terremoto. Allora io saluto innanzitutto Roberto Taormina. Buongiorno Roberto. Ciao Gigi, buongiorno, buongiorno a te, Roberto. Buongiorno. Ecco, Roberto, dovete sapere, è un nostro ascoltatore che, come dire, abbiamo ci aiuta un po' a tenere il polso della situazione, perché è importante avere le istituzioni, raccontare le decisioni. E tra l'altro saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina il sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferrioli. Buongiorno, sindaco. Salve. Oggi, tra l'altro, ieri c'è stato un incontro importante, si parla di piano casa, ma Roberto, dunque, quando ci siamo sentiti l'ultima volta, mica tanto tempo fa, ci raccontavi di notte nei giardinetti in attesa della fine di una cassa integrazione di fatto obbligata dal sisma. Come stanno andando avanti le cose viste da Mirandola? Allora Gigi, nel mio caso ti posso dire che la tenda non ci dormo più, io e la mia famiglia siamo tornati a casa, però dormiamo piano terra, perlomeno io, mia moglie e le mie figlie hanno provato a cominciare a dormire su, io ancora non ci riesco. Fate tentativi, quindi dormite al piano terra, avete lasciato la parte, diciamo, giardino e tenda, che già a suo tempo, voglio dire, era una questione più psicologica, ci raccontavi, cioè una questione di poter dormire fondamentalmente, perché se poi non dormi non è... Ecco, e quindi pian piano state rioccupando i vostri spazi consueti, quelli della vostra casa. Sì, molto bene, anche si pranza, insomma si vive in casa, o solo la notte, più che altro a me è rimasta questa un po' paura, questo dormire con un orecchio sempre così, non lo so. Allerta. Andrà via, sicuramente, ci vorrà tempo. Ecco, sul fronte del lavoro, lo ricordiamo... Roberto Taormina, che ci raccontava lui come sua moglie, se non ricordo male, cassa integrazione per tutti e due. Qual è la situazione oggi? Guarda, la situazione, io ho cominciato a lavorare circa 2 settimane fa, lavoro a Finale Emilia, e approfitto per salutare il sindaco e siamo contentissimi. Mia moglie, tanto per dirti, comincia venerdì comincia a lavorare dal 20 maggio, quindi nel mio caso una famiglia come la nostra che non ha perso la casa, solo qualche crepa non pericolosa da fatta controllare, e ricominciare a lavorare ci riteniamo veramente fortunati rispetto a quelle persone che non hanno né case né lavoro, e quelli va al nostro pensiero quotidiano. E ne conosci tanti? Sì, ce ne sono tanti di realtà, e li si vorrebbe aiutare in qualche modo, ma si fa quello che si può. Ecco, adesso diciamo la casa naturalmente, il lavoro, poi c'è all'orizzonte anche il tema della scuola. In questo giardino improvvisato che ci hai raccontato di come appunto la comunità si è raccolto, naturalmente una preoccupazione particolare è stata rivolta ai bambini che magari di giorno sono occupati, sono presi a giocare, in fondo c'è anche un aspetto, come dire, di extra vacanza, anche se adesso poi siamo nel pieno delle vacanze canoniche, ma con l'avvicinarsi della scuola c'è da una parte una questione di infrastrutture, dall'altro proprio quella preoccupazione per loro. Roberto Taormina ci diceva appunto che la sera la paura arriva, monta e ti arriva addosso. Ecco, Roberto, per quanto riguarda i bambini, quelli che intorno appunto alle vostre famiglie, come li vedete? Siete più sereni? Credete che anche loro stiano, come dire, metabolizzando questo grande lutto collettivo che è un terremoto? Ma da quello che si percepisce sì, poi dipende anche dall'età, perché ci sono bambini più grandi che se la portano dentro secondo me diversamente, ma tutto sommato va bene, perché poi con le piscine aperte, un po' che sta tornando tutto alla normalità, almeno da vedere sembra che stiano bene, ed è giusto anche così. Il bambino, hai presente il bambino, no? Che gioca, distratto, che sogna, che fa, forse siamo noi e non forse, teniamo anche via il forse. Io ho visto ieri l'altro una signora dove andiamo a fare solidarietà, portiamo la solidarietà, 67 anni, lei ha il container a 10 metri dalla sua casa, se la guarda tutti i giorni e fa guarda qua, fa io 40 anni di sacrifici, 40 anni di lavoro e fa adesso non so quando ci tornerò mai dentro quella, alla mia casa. E se la guarda, si guarda la sua casa dal container. Sono proprio gli anziani che sono secondo me quelli più colpiti sul fatto, sai, di aver fatto tanti sacrifici, tanto lavoro e 22 secondi, 20 secondi di terremoto e via. E tutto questo sparisce. Grazie a Roberto Taormina per essere stato con noi. Ecco, che Ferragosto sarà, Roberto? Come, cosa prevede Guarda, il vostro programma? Sì, io della mia famiglia è quello di una giornata tranquilla a casa. Stasera facciamo una cena con mia suocera e i miei cognati. Siamo tutti in compagnia. In questo momento sto facendo il giro dei viali con mia moglie e il cagnolino. Oh, una giornata di splendida giornata. Normalità, no? In fondo è quello che, che si vuole di più. Roberto, esatto. Grazie davvero ancora, un saluto, un abbraccio da tutti noi di Radio 24 che attraverso voi, Roberto Taormina estendiamo a tanti, lo ricordo, Roberto Taormina è un ascoltatore, un amico che ci aiuta a raccontare una realtà come fa il sindaco di Finale Emilia che adesso magari ci aiuta anche a capire le ultime novità, le ordinanze del presidente della Regione Emilia Errani, ieri il piano casa, insomma ci sono novità in caldo. Sentiamo però un momento quelle che è invece il tema della viabilità, dunque aggiornamenti di viabilità, poi torniamo dal sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferrioli. 24 mattino, estate. Buon Ferragosto e buon viaggio naturalmente anche da parte nostra. Allora, sindaco, grazie di essere con noi questa mattina. Dicevo, ieri c'è stato una nuova tappa, tra l'altro in questa settimana che sì è di Ferragosto, ma insomma non è che i cantieri di questo processo si fermino, visite importanti delle istituzioni appunto verso il fine settimana. Ieri però tre ordinanze generali, le linee generali del piano casa. Io vorrei ripartire da qui. Roberto Taormina ci ha raccontato anche questa immagine molto forte di una signora che osserva la sua casa dal container. Qual è la situazione e in che modo le ordinanze firmate ieri accelerano il processo di ritorno tutti a casa? Devono accelerarlo per forza perché in questo momento molta gente a Ferragosto sta sentendo l'arrivo di quello che era, diciamo, la brutta stagione. Quindi questa è naturalmente una tappa importante, una tappa che prevede di presentare a brevissimo un piano alla cittadinanza. Ancora non è arrivato nei dettagli precisi, nei moduli, in quello che dovrà comunque essere compilato da quello che sono i cittadini che hanno perso la propria casa e hanno perso anche la propria azienda. Quindi questo è naturalmente il cuore di quello che sarà il prossimo lavoro, i prossimi mesi, purtroppo devo dire anche i prossimi anni, perché ci vorranno anni per ritornare a quella normalità che tanto agogniamo e quel ritrovare quelle comunità che abbiamo perso, quel tessuto socio-economico che purtroppo è stato distrutto. Ecco, ci vorranno anni addirittura. Sindaco, ci ricordi a Finale Emilia, che diciamo è stata resa celebre anche da una drammatica copertina su settimanali americani per la vostra torre, ne abbiamo parlato l'altra volta, che davvero state ricostruendo pezzo pezzo, state raccogliendo pezzo pezzo. Quante persone sono senza casa? Ad oggi siamo intorno ai 1900 abitazioni inagibili. Solo a Finale? Solo a Finale Emilia, quindi puoi immaginare che lavoro vuol dire, e soprattutto non tutti hanno la possibilità, grazie anche al decreto legge Gabrielli, trasformato poi nella legge 122, di partire autonomamente. Molte persone, devo dire la verità, si stanno già tuffando sui nostri uffici cercando di trovare fondi per anche solo pagare la perizia, quella perizia giurata che permetterebbe di far partire i lavori e poi dopo eventualmente pagarli con i fondi del terremoto, quelli destinati al governo e trovati così faticosamente, ma alla fine è un risultato eccellente sugli 8 miliardi e mezzo circa, quindi quei 6 miliardi aggiuntivi che sono stati trovati appunto dai Errani nell'ultimo mese. Ecco, per accedere a questi contributi bisogna attrezzarsi proprio in termini burocratici ed evidentemente gli uffici comunali dei vari comuni diventano la prima frontiera, la prima qualsiasi domanda si viene da voi. Ed è giusto anche, ogni domanda, ed è giusto così. Sì, esatto, qua si va purtroppo in un momento che si passa, ricordo anche che gli uffici comunali di paesi piccoli come il mio, cioè 16.000 abitanti, non erano attrezzati sicuramente per un'emergenza del genere. Noi abbiamo un ufficio tecnico che fa delle funzioni anche di censimento danni che prevede due tecnici. Quindi questo vuol dire che nel momento stesso che la quotidianità riesce a malapena a gestirla, in un momento come questo naturalmente serve tantissimo personale. Fortunatamente l'ANCI ci è venuto incontro cercando ovunque, adesso stanno arrivando da tutte le parti d'Italia dei tecnici di soccorso, ma questo non può essere l'ordinario. Naturalmente abbiamo anche questi 170 dipendenti che andremo a tempo determinato ad assumere proprio per far fronte alle milioni di domande che le persone ci stanno facendo. Mi fermano per strada ogni secondo, ma questo è ovvio: quando hai perso la casa e vuoi recuperarla, hai la fretta, la voglia, poi fa parte un po', come ho sempre detto, di questa popolazione, di questa comunità che non può, cioè, già vedere le macerie per terra è un fastidio enorme, cioè, non vede l'ora di tirare via anche il più piccolo sassolino per ritrovare almeno quel tipo di quotidianità in cui tutti i giorni vuoi ritornare a rituffarti appunto per un po' di tranquillità e finalmente anche sperando che tutto venga lasciato alle spalle. Infatti, rituffarsi dunque nelle piccole cose, nella normalità, tutto questo però appunto richiede anche un impatto sulla pubblica amministrazione enorme. Noi siamo anche in un'estate in cui si fa, ovviamente, diciamo nell'estate della spending review, tanto per intenderci, di tagli e difficoltà. Voi vi trovate, causa evidentemente forza maggiore, in una sorta di controtendenza in cui dovete improvvisamente gestire numeri e complessità quasi da metropoli, direi. E questo che un po' ci spaventa, quello lo dico veramente, ma ce la faremo, perché dovremo farcela. Ovvio che qua, quando si parla di spending review, spesso e volentieri si ha la sensazione che si tagli sempre sui più deboli, e quando ci sono invece poteri forti si fa sempre un po' molta fatica in Italia, probabilmente in tutto il mondo, però devo dire che il discorso che noi abbiamo necessità di far fronte, e dovremo anche come comuni prenderci la responsabilità di definire se quella richiesta è giusta o non giusta. Ovvio che noi conosciamo il territorio, qualcuno potrà anche fare il furbetto, cioè faccio un esempio: la casa già crollata di campagna prima del terremoto, qualcuno potrebbe pensare di mettersela dentro. Mettiamola nel grande calderone del terremoto. Esattamente, questo naturalmente noi abbiamo una mappatura di tutto il nostro territorio, abbiamo le fotografie, sappiamo com'era il nostro territorio prima del terremoto, ed è giusto che ci prendiamo questa responsabilità. Certo, comunque non bisogna neanche vivere nell'illusione del mondo perfetto, perché adesso l'Emilia, per carità, io lo dice un emiliano di radici, ma neanche l'Emilia è il paese perfetto. Detto ciò, la paura dei furbetti non deve neanche impedire appunto il legittimo diritto e interesse della comunità, che è vasta. Sindaco, il fatto che lei abbia detto che è un po' preoccupato dall'impatto amministrativo, francamente mi rassicura, perché se non lo foste sarebbe davvero invece preoccupante, perché ci sarà un lavoro grande, un lavoro complesso, una burocrazia che è comunque la nostra burocrazia italiana, quindi insomma sappiamo anche i nodi. Ecco, vorrei però chiudere su un altro aspetto: il passaggio di Ferragosto è anche un momento psicologicamente di avvicinamento a all'autunno, all'apertura delle scuole, torno a chiedere, come ho fatto a Roberto Taormina, ai bambini, sarà tutto pronto per l'apertura dell'anno scolastico? Saranno quantomeno in grado di ritrovare, diciamo, gli spazi della normalità o nuovi spazi della loro collettività dalle vostre parti a Finale Emilia e negli altri comuni? Purtroppo molte delle scuole nostre sono inagibili. Noi abbiamo purtroppo 5 scuole completamente da ricostruire, ma questo parlo di Finale Emilia, ma nei nostri territori qui limitrofi molte scuole sono completamente da tirar su. E questo naturalmente è l'altro grande tema, come giusto con l'arrivo dell'autunno. Il 17 settembre alcune scuole riusciremo a recuperarle, abbiamo alcune scuole che con qualche, insomma, con 100-200 mila euro riusciamo a recuperare, e lo faremo entro il 17 di settembre. Però alcune altre, come ho detto, queste 5 sono da ricostruire da zero. Alcune stiamo già partendo, quindi sono già partiti i cantieri. Abbiamo certamente davanti, oggi è il 15 agosto appunto, in 60 giorni vogliamo riuscire a riaprire delle scuole. Il che vuol dire che il 15 ottobre vogliamo rimettere i bambini dentro, sotto, tutti i bambini sotto un tetto. Questo naturalmente può essere un lasso di tempo che è il massimo, quindi entro il 15 ottobre dobbiamo fare tutto, non è che riapriremo tutto il 15 ottobre, però tra il 17 e il 15 di settembre, il 15 di ottobre, troveremo il modo, attraverso tutta una serie di incastri e di tensostrutture e di anche eventualmente utilizzo di aule in giro per il territorio, e anche non solo utilizzando, faccio un esempio, utilizzeremo tutto quello che abbiamo sul territorio per rimettere i bambini e non fargli perdere neanche quel mese circa di scuola. Quindi noi stiamo cercando di fare il possibile per arrivare a tranquillizzare tutti e mettere avanti tutto questo, che è un lavoro enorme, come ho detto, per un piccolo paesino come il nostro, o come i nostri, perché poi qui non abbiamo delle grandi metropoli. Però ricordo sempre che è un territorio che ha 300.000 abitanti come cratere, quindi è un cratere molto vasto. Molto vasto, grazie sindaco. Siamo in conclusione. Fernando Ferioli, sindaco di Finale Emilia, è un piacere sentire. I bambini ci guardano e sentono anche la passione delle persone che lavorano a questo programma, questa esigenza di ricostruzione. Grazie ai nostri ospiti, ancora un buon Ferragosto a tutti voi. Ora che sono le 8:58 secondi, la linea va a Carmelo Lauricella, da lì a GR24. A domani.